Sospensione di ricreativo, principia avviare il culturale. Seduti per Dio! Grigliottosa, la nuova rubrica di approfondimento di Radio Contado. E rieccoci con Radio Contado e la sua nuova rubrica Grigliottosa. Per questa puntata passeremo dal 1500 e dalle rivolte contadine, trasportandoci magicamente agli inizi dell'Ottocento in Inghilterra per parlare di luddismo, e lo faremo utilizzando un intervento sempre tratto dalla Tre Giorni che si è svolta in Valpellice quest'estate, Storie e resistenze contadine. Non vi dico altro, buon ascolto. Allora, innanzitutto volevo ringraziare questo spazio, è uno spazio di condivisione molto importante, e in particolare volevo ringraziare il fatto che Giorgio Gamba ci abbia presentato l'Ecomuseo, perché è stato molto interessante per me poter venire in contatto con le macchine che effettivamente utilizzavano chi poi produceva dei prodotti tessili. Dico questo perché il luddismo è un movimento, cioè un movimento, è un fenomeno che si è sviluppato in Inghilterra tra il 1811 più o meno a grandi linee e il 1816 anche lì a grandi linee, perché è un movimento molto indefinito, sia dall'inizio sia nella sua fine. Quello che è importante di questo movimento, perché dico che è un fenomeno complesso, è il fatto che comunque è un fenomeno unitario sotto certi punti di vista, ma su altri punti è molto diversificato anche all'interno dello stesso quadro, diciamo. Quindi sostanzialmente sono delle rivolte che sono partite per motivazioni che si sono definite via via che le rivolte si sviluppavano, e adesso vi spiego cosa è successo nel pratico. Sostanzialmente è una storia abbastanza lunga, è fatta di leggi sulle recinzioni, ovvero leggi che andavano a recintare dei territori che erano usati in maniera comunitaria sostanzialmente da contadini e persone che vivevano nei villaggi, nelle zone periferiche dell'Inghilterra. Questo processo di privatizzazione delle terre ha una storia lunga, ed era già stato oggetto di contestazione da parte di delle prime rivolte contadine, una in particolare nel 1607, guidata appunto da questo Capitan Puch, che si è opposto e guidò una rivolta anche abbastanza importante contro la privatizzazione delle terre. Dopodiché è un'escalation. Arriviamo quindi nel giro di 200 anni, quindi all'inizio della rivoluzione industriale, a una privatizzazione massiccia delle terre. Quindi cosa significa? Che le terre che prima erano usate per un'economia di sussistenza da parte degli abitanti delle regioni rurali diventano private, quindi in mano a pochi grandi proprietari che hanno il diritto di sfruttarle, esclusivo. Questo è stato uno dei motivi più importanti che ha spinto i tessitori a reagire dandosi una prospettiva di lotta. Dico, sembra strano che dei tessitori abbiano reagito alla privatizzazione delle terre, in realtà no, perché anche lì è la questione delle categorie, di quello che noi immaginiamo. Un contadino è un contadino e un tessitore è un tessitore. No. All'epoca dei fatti, quindi io parlo dei primi dell'Ottocento, nell'Inghilterra rurale, il contadino e il tessitore erano la stessa cosa, ovvero seguivano il ciclo delle stagioni. Quando c'era da fare un lavoro di tessitura, tutta la famiglia e tutta la comunità era coinvolta in quel lavoro, quindi veniva dedicato tempo a quel lavoro. D'estate sostanzialmente c'era più lavoro nei campi e quindi ci si dedicava maggiormente alla produzione agricola, quindi tutti avevano un pezzo di terra, tutti avevano degli animali domestici per la propria produzione, facevano legna nei boschi che erano ancora ad accesso comunitario, c'era un equilibrio e c'era una diversificazione del sapere riguardo al lavoro, cioè il lavoro era diversificato. Quando la rivoluzione industriale prende piede, cioè c'è l'esigenza da parte di una certa classe di avviare una rivoluzione massiccia anche a livello di produzione agricola, viene sottratto del territorio e questo provoca una reazione in questa classe di contadini tessitori, di artigiani, che sostanzialmente decidono di reagire. Dopo una grossa manifestazione, come spesso accadeva all'epoca, di tessitori che erano scontenti dell'ulteriore abbassamento dei loro salari e delle paghe che prendevano, erano ancora tessitori a mano, quindi usavano già delle macchine, ma erano macchine non troppo complesse, non erano di nuova generazione, diciamo, non erano ancora macchine a vapore, vengono abbassati i salari, quindi i tessitori scendono in piazza e a Nottingham, nei pressi di Nottingham, un villaggio vicino, e fanno una grande manifestazione. Questa manifestazione viene repressa nel sangue, come spesso accade tutt'oggi così, viene repressa nel sangue, ma i tessitori non si fermano lì questa volta. Nonostante le perdite, decidono di incontrarsi nella foresta di Sherwood. Allora, foresta di Sherwood è universalmente conosciuta perché ha dato casa a Robin Hood, il principe dei ladri. Ecco, loro si radunano di notte e decidono di reagire a questo ulteriore sopruso che ormai si trascina da 200 anni come minimo. Quindi nel giro di qualche mese, ma letteralmente pochissimo, dal marzo più o meno del 2011 alla fine del 2011, i tessitori si danno un nome e decidono di chiamarsi luddisti. No more chant your old rhymes about bold Robin Hood, his feats I do little admire. I'll sing the achievements of General Ludd, now the hero of Nottinghamshire. Brave Ludd was to measures of violence unused, till his sufferings became so severe, that at last to defend his own interests he roused, and for the great fight did prepare. The guilty may fear, but no vengeance he aims at the honest man's life or estate. His wrath is entirely confined to white frames and to those that all prices abate. Those engines of mischief were sentenced to die by unanimous vote of the trade. And Lud, who can all opposition defy, was the grand executioner made. And when in the work he destruction employs, himself to no method confines. By fire and by water he gets them destroyed, for the elements aid his designs. Whether guarded by soldiers along the highway, or closely secured in a room, he shivers them up by night and by day, and nothing can soften their doom. He may censure great Lud's disrespect for the laws, who ne'er for a moment reflects that foul imposition alone was the cause which produced these unhappy effects. Let the haughty, the humble no longer oppress, then shall Lud sheath his conquering sword. His grievances instantly meet with redress, then peace shall be quickly restored. Let the wise and the great lend their aid and advice, nor e'er their assistance withdraw, till full-fashioned work at the old-fashioned price is established by custom and law. Then the trade, when this arduous contest is o'er, shall raise in full splendor its head, and colting and cutting and squaring no more shall deprive honest workers of bread. Allora, Lud, cioè i luddisti e Lud generale o Capitan Lud non è mai esistito. Questa è la cosa interessante. Però, a differenza di Robin Hood, Lud viene preso, il nome Lud deriva da una leggenda che si è diffusa, nelle regioni, nelle zone rurali, nelle contee, in Valle Contee, che parla di questo ragazzo apprendista tessitore. L'apprendistato all'epoca era gestito in maniera ferrea, con delle leggi ben chiare. Quindi questo apprendista tessitore che si ritrova tutto a un tratto, si è rotto le scatole di lavorare fondamentalmente. Il padre, in varie versioni, il padre lo picchia e lui per reazione spacca la macchina da tessere. In un'altra versione il padre lo porta da un magistrato che lo frusta e lui per reazione spacca di nuovo una macchina. Terza versione è sostanzialmente Ludlam, in realtà è un ragazzo emarginato della propria comunità, un po' particolare, che viene preso in giro dagli altri ragazzi della sua comunità. Lui per reazione a una presa in giro rincorre il suo dileggiatore fin dentro casa e spacca, non trovandolo, spacca la macchina, una macchina che trova lì da tessere. Ora, è interessante questo perché innanzitutto ci fa capire che Lud viene preso, nominato generale, quindi già la scelta di nominare generale un ragazzo un po' toccatello che spacca le macchine ci fa capire in che direzione volevano andare i luddisti. Secondo punto, dentro le righe della leggenda troviamo il ragazzo che insegue il suo dileggiatore dentro casa, e nella casa c'è l'officina, cioè c'è l'officina dove producono, tessono, cioè dove si svolge il lavoro del contadino. Quindi sostanzialmente lì troviamo di nuovo una dimensione dove la cucina del tessitore viene trasformata a seconda delle stagioni, quindi ci sono dei momenti in cui quella cucina è piena di sacchi di lana che loro ricevevano, oppure di cotone a seconda del prodotto richiesto, e viene lavorata da tutta la famiglia. Quindi già questo ci dice che Lud è stato preso come simbolo di un certo tipo di segmento della propria comunità, a differenza di Robin Hood, che Robin Hood è una figura non quello che poi troveremo in una canzone anche molto famosa, poi ne parleremo. Non andava più bene, Robin Hood non andava più bene perché non era più un personaggio abbastanza forte per contrastare la minaccia che stava arrivando e che i luddisti in maniera estremamente intuitiva avevano compreso, perché dobbiamo anche capire un punto importante. Si pensa che i luddisti siano siano andati contro le macchine perché le macchine stavano già effettivamente sostituendo il lavoro umano. In realtà sia Thompson che Osborn sono due storici molto importanti e lo dicono chiaramente: le macchine in la società industriale, non dico pienamente sviluppata, ma abbastanza sviluppata, l'abbiamo dal 1830 più o meno in Inghilterra, forse un po' prima, ma non nel 1811. Lì siamo all'inizio, lì siamo ancora in un sistema dove c'è il domestic system che inizia ad essere infestato dall'avvento delle macchine di nuova generazione, ma più come minaccia, perché i capitalisti e i padroni in realtà già all'epoca utilizzavano questo spauracchio della macchina più come una minaccia che come una reale proprietà, nel senso che non avevano ancora tutti il capitale sufficiente per poter acquistare delle macchine di nuova generazione, quindi a vapore in quel caso lì. Quindi agitano questo spauracchio dicendo agli operai: vi sostituiremo con la macchina, così abbiamo risolto il problema. O accettate di lavorare a un costo minore oppure noi vi sostituiremo con le macchine. Questo ha portato i tessitori a ritrovarsi in una situazione veramente difficile, nel senso che privati delle terre, i salari diminuiti, li ha spinti a una reazione che inizialmente, quando scoppia nel Nottingham, è una reazione molto, molto ironica, nel senso che loro si rincontravano appunto nelle foreste di notte o nei pub o nelle retrobottega sostanzialmente, e si incontravano, decidevano la spedizione punitiva verso il padrone che era stato accusato di sfruttamento, di aver ribassato ulteriormente i salari ai tessitori. Quindi loro partivano di notte, bussavano alla porta del padrone e gli dicevano: guardi, ci dia le chiavi perché così noi spacchiamo solo le macchine e non tocchiamo nient'altro. Spacchiamo le tue macchine perché tu hai peccato contro la comunità, nel senso che hai infranto quel codice non scritto che è nella nostra comunità, perché il padrone anche faceva parte della comunità. Quindi dacci le chiavi e la risolviamo così. Ovviamente ogni tanto gli puntavano anche una pistola alla testa, ma cercando di evitare in qualunque modo la violenza. Questo è molto importante perché è un punto su cui io ho insistito in un lavoro di ricerca che ho fatto, ovvero i luddisti non erano dei violenti, è stato poi il padrone a diventare violento, perché fino a tutto almeno il 1811 i luddisti continuano con questa pratica di distruzione dei telai, quindi la pratica più immediata per arrestare il processo capitalista che si stava mangiando i territori, si stava rapinando il loro sapere, e ci torneremo magari poi successivamente, ma tanto è stato detto. Nel 1812 però succede qualcosa, succedono due fatti principalmente. Allora, Spencer Perceval, che era il primo ministro, viene assassinato da un pazzo, così dicono, davanti all'uscita del ministero, e le contee luddiste, dove si è diffuso il luddismo, esplodono in un giubilio collettivo. E questo primo fatto è importante perché porta il governo a prendere seriamente le rivolte luddiste. Secondo fatto, nel 2012 il luddismo, da che era circoscritto nell'area di Nottingham come un'epidemia, si diffonde alle contee vicine, quindi Yorkshire e poi nel Lancashire. Questo preoccupa particolarmente il governo, e che inizia a prendere seriamente sul serio i luddisti. Dice: ok, abbiamo un problema abbastanza grave, cosa facciamo? Introduciamo la pena di morte per la distruzione dei telai meccanici. Questo è molto molto importante perché è stato un punto di svolta che ha inciso parecchio nella storia delle rivolte luddiste. Che già comunque avevano manifestato una certa insofferenza verso gli attacchi luddisti, ma che si erano limitati comunque in un certo senso a subirli, reagiscono e non solo reagiscono in modo violento, quindi commettono anche degli omicidi, ma in più lo Stato, quindi il governo, appoggia questa cosa, quindi iniziano a essere militarizzate intere aree, vengono arrestate un quantitativo di persone molto ampio, e chi veniva accusato di essere un luddista veniva ucciso. Questa cosa qui è importante perché ci fa capire che a un certo punto la macchina, che come dice Manfora è l'elemento più progressista che all'epoca apparve, diventa più importante di una vita umana. Questo è stato vissuto dai luddisti come una forma di tradimento, cioè il ragionamento è stato: ma come, una macchina? Io spacco una macchina e questa macchina mi costa la testa, cioè nel senso mi fanno fuori perché ho ucciso una macchina, perché lì si parla di uccisione di una macchina a quel punto lì, cioè paragonata a un omicidio. In realtà l'intento del governo è far passare, e lì è interessante, la macchina come simbolo di un sistema. Quindi sostanzialmente nel momento in cui io rompo una macchina, sto attentando al sistema, e questo è molto importante perché quello che poi accade con i luddisti è quello di pensare che la rottura delle macchine sia iniziata con i luddisti. In realtà è una tradizione di lunga data, cioè nel senso che era già una pratica abbastanza consolidata di contrattazione collettiva dei salari, quindi quando c'era una divergenza tra il padrone e l'operaio, di solito l'operaio rompeva la macchina e otteneva di solito un aumento salariale. Quello che succede in quel caso lì è che nel momento in cui la macchina prende, gli viene affidato uno status ontologico differente, non diventa più un rompo un oggetto, ma è l'uomo che diventa oggetto, quindi è l'uomo che, c'è un'inversione dei termini, è l'uomo che si reifica e la macchina diventa un soggetto della storia. E questo è molto interessante perché in quel caso lì allora irrompere una macchina non è più gesto in sé, cioè quello che significa distruggere un oggetto, ma significa distruggere un soggetto della storia, che per il capitalismo è fondamentale, perché senza la tecnologia, senza il sapere tecnologico non può esistere capitalismo, questo ce lo dice anche Panzieri. È interessante però nel modus operandi dei luddisti è che i luddisti, oltre ad andare a distruggere le macchine, avevano una serie di pratiche non scritte che sono molto interessanti e che io potrei definire quella che è la grammatica luddista, cioè loro comunicavano tramite canzoni, quindi creavano ballad che venivano diffuse nelle varie contee e che raccontavano la loro storia, raccontavano la loro narrazione dei fatti, e quindi abbiamo per esempio e anche all'interno delle stesse canzoni c'è un escalation. Quando nel 1812 viene introdotto il Frame Breaking Act, questo che dichiara, cioè che decreta la pena di morte per chi rompe un macchinario, le canzoni automaticamente diventano molto più violente, quindi in un certo senso si incita la comunità a dire ok, fino qui abbiamo mantenuto il patto di comunità che c'era con gli altri abitanti delle zone rurali, quindi tutti gli individui che costituivano la comunità. Ma nel momento in cui avviene questa rottura, a quel punto lì George Mellor, che è uno dei luddisti più importanti, dice: perché continuare a rompere le cardatrici? Perché lui era un luddista dello Yorkshire dove si lavorava la lana, quindi perché rompere le cardatrici? Andiamo ad ammazzare i padroni. E aveva capito, e questo molto prima che arrivasse tutto il sistema industriale delle fabbriche, dove gli operai poi sappiamo sono stati massacrati all'interno del sistema industriale. L'intuizione è quella, nel senso non quella di andare ad ammazzare i problemi, ma l'intuizione di sviluppare un pensiero collettivo che riesca a riflettere criticamente su quello che sta succedendo a tutti i livelli della propria comunità. E loro lo percepivano così, percepivano un aggravarsi della propria condizione, una decostruzione della propria comunità e soprattutto dei legami che c'erano all'interno della comunità. E il capitalismo ha fatto questo, ha frammentato lo spazio, ha frammentato la persona umana e ha frammentato e ha distrutto i legami con la terra e con gli altri esseri viventi. Quindi l'aspetto di distruzione delle relazioni che c'erano all'interno della comunità è stato un capisaldo dell'azione capitalista. Era necessario, non si poteva pensare di sviluppare il capitalismo senza decostruire la società rurale, la società comunitaria, ma non tanto perché i luddisti spaccavano le macchine, ma perché i luddisti ci andavano vestiti da donna a rompere le macchine, ci andavano brandendo il martello di Enoch, che io la prima volta che ho letto la canzone in cui è contenuto il nome di Enoch ho pensato: ah, sarà una divinità. No, in realtà è questo Enoch Taylor che costruiva macchine, è un fabbro, e paradossalmente dice: Enoch le ha fatte, Enoch le distrugge. Quindi sostanzialmente c'era questo aspetto di rendere mitologico l'azione. E questo dava fastidio alla razionalità capitalista, ma non solo a loro, anche ai riformisti, ai radicali riformisti, che all'epoca era l'altra grande forza che lavorava, diciamo, in segreto per costruire poi un movimento più organizzato, e i luddisti davano fastidio anche a quel movimento perché non erano razionali. C'era un tentativo di reincantare il mondo, di appoggiarsi al mito, di appoggiarsi a delle pratiche che erano viste come qualcosa di magico. E questo secondo me è un punto, è una suggestione molto interessante, cioè bisogna recuperare la capacità di reincantare anche la lotta, e questo secondo me è quello che ci hanno lasciato in eredità i luddisti, a prescindere da quello che può essere la definizione, perché la definizione di luddismo è una definizione estremamente riduttiva, cioè la maggioranza pensa sono dei distruttori di macchine, e i neoluddisti non vanno lontano. Mi interrompo perché potrei parlare per ore. Grazie. Oh, Bene, se questa nuova rubrica di Radio Contrado vi piace, se questa nuova rubrica vi fa schifo, se avete consigli, se avete infamate, se avete qualsiasi cosa, non esitate a scriverci su radiocontado@insiberia.net. Alla prossima!